Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e sono non felice perché difficile essere felici della classifica, ma insomma voglio annunciare, visto che continuano a chiedere gli ascoltatori, che oggi torna la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi della pubblica amministrazione, sprechi, ruberie, furti, reati, chi più ne ha più ne metta. Cercheremo di non appesantire ulteriormente il clima difficile in questo periodo tra Covid e meteo, però dando anche una particolare attenzione a tutti gli sprechi, i furti che riguardano a maggior ragione il sistema sanitario e riguardano a maggior ragione, purtroppo abbiamo già beccato dei casi in cui si usa l'emergenza Covid per fregare soldi pubblici, quindi con finte società, con varie altre dichiarazioni. Comunque oggi ce n'è della classifica e poi vedremo di mantenerla tutti i venerdì come sempre. Per quello che riguarda gli altri temi, oggi parleremo anche dei dati sull'export, l'occasione fornita da alcuni numeri presentati al Salone Nautico per quello che riguarda un settore che vale circa 4 miliardi con l'indotto, mi riferisco alla nautica italiana, ma allargheremo il tema anche all'andamento dell'export, alla ripresa nei vari settori. C'è una ripresa a macchia di leopardo su alcuni comparti, soprattutto anticipo già che le indicazioni che arrivano dai paesi asiatici e dai paesi centro-nord europei non sono così negative. C'è ancora un grosso punto interrogativo sugli Stati Uniti, invece mi riferisco al nostro export complessivamente, ma ne parleremo con chi secondo me è il più grande conoscitore in questo paese di numeri reali sui distretti, sulle categorie produttive nelle esportazioni, ossia il professor Marco Fortis, che sarà nostro ospite nella seconda ora del programma. Chiaramente, tornando alla classifica, torna anche la startup, ossia cioè la notizia che è positiva, visto che la classifica ha tante caratteristiche, ma sicuramente non è una classifica di notizie positive. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Come vanno i mercati? Intanto meno 0,30% Milano, meno 0,35% Parigi, Francoforte meno 0,60%, Londra meno 0,25%, il Dow Jones perde lo 0,60%, a Piazza Affari negativa soprattutto Nexi meno 2,90%, B per meno 2% come Pirelli, L'1,80 il calo di Leonardo, l'1,60 di Unipol, l'1,5 di CNH, l'1,30 di Ferrari e Azimut. Bene, Banco BPM più 5,40, Saipem più 3,80, Mediobanca più 1,80, Tenaris più 1,60, Atlantia è invariata oggi, dopo i saliscendi di ieri, la sospensione anche di ieri per troppo eccesso di volatilità, in questo caso al ribasso. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dalla notizia di carattere internazionale. Oggi, al di là del fatto che sia il presidente americano Trump che la First Lady Melania sono positivi al coronavirus, ha fatto molto scalpore la notizia che arriva da Amazon, perché sono più di 19.816 i dipendenti di Amazon che hanno contratto il virus. Il tasso di infezione però è il 42%, più basso delle attese rispetto a quello generale della popolazione negli Stati Uniti. Nello specifico sono l'1,44%, perché Amazon ha 1.372.000 lavoratori in prima linea e sono appunto le prime linee che sono state coinvolte. E quindi solo i dipendenti, prima vuol dire magazzinieri, i cassieri di Whole Foods. Segnalo che a marzo anche i lavoratori in Spagna e in Italia erano risultati positivi al virus, e si sono uniti a quelli degli Stati Uniti e in tutta Europa per chiedere una petizione che invitava Amazon ad adottare linee guida di sicurezza più severe. Lamentavano appunto la difficoltà a lavorare in sicurezza. Ora, siccome Jeff Bezos è uno dei pochi che si è arricchito, lui e i suoi manager, da questa pandemia, glielo diciamo in Veneto, tira fuori Sky Bezos, cioè investi un po' di più in Amazon. Adesso so che mi arriva la mail dell'ufficio stampa, per carità, di Amazon, che dà: ma guardi che noi investiamo. Ho capito, le lamentele non le facciamo noi, le fanno i dipendenti di Amazon. Non mi sembra che in un panorama molto critico Amazon non abbia un problema di liquidità e di soldi con tutto quello che ha guadagnato grazie al lockdown. Non ho nessun problema a dirlo. Come capirete, la mia simpatia verso i grandi colossi del web non è né simpatia né antipatia. Rispondo a una domanda: penso che i colossi del web debbano pagare le tasse come tutti e come le industrie normali, gli artigiani, i commercianti normali. Non ho né una simpatia particolare né un'antipatia particolare. Sono preoccupato sulle quelle che saranno le cicatrici strutturali, e cioè, nel senso, Amazon va benissimo a patto che non mi distrugga tutti i negozi di prossimità o i negozi nei centri urbani, va bene? Dopodiché mica possiamo impedire di comprare su Amazon, ci mancherebbe. E anche sulle tasse Amazon, diciamo. Abbiamo avuto qualcosa da ridire, ricordate, ne abbiamo parlato decine di volte, però adesso non voglio continuare sul tema. Invece andiamo sui dati sugli Stati Uniti. La disoccupazione cala al 7,9% dall'8,4% di agosto, però i nuovi lavori, cioè i posti di lavoro che si sono creati, sono nettamente al di sotto delle attese: 661.000 posti di lavoro contro attese per 859.000, sono 200.000 posti in meno. Ancora alla Camera si va verso una bocciatura nel nuovo piano di stimoli al Senato da 2.200 miliardi presentato dai democratici. La cosa interessante si fa per dire che oggi Moody's, una delle tre agenzie di rating al mondo, ha tagliato il voto allo stato di New York. È la prima volta in 30 anni, ha abbassato il giudizio sul debito di New York da AA2 a AA1, e anche qui sappiamo, molto interessante quello che diceva ieri Leonardo Maisano a proposito di Londra, e cioè i paesi dove c'è una grandissima metropoli, Londra rappresenta il 25-30% del PIL britannico, sono quelli che stanno soffrendo di più, perché proprio le metropoli stanno soffrendo tantissimo. New York è un caso ancora più eclatante, ma vale anche per Parigi. E paradossalmente l'Italia, che non ha mai avuto una grande storia di una grandissima metropoli, ma di tanti centri medio grandi o medi, l'Italia dei comuni, degli 8.000 comuni, potrebbe soffrire di meno come impatto strutturale dal coronavirus e dai lockdown parziali o totali che ne hanno fatto seguito. A questo proposito, il GR24 vi ha già dato la notizia: 2.499 casi stabili, le vittime 23 in più in Italia. La situazione è molto preoccupante in Francia, perché ci sono stati 14.000 casi in 24 ore, con un tasso di positività molto più alto rispetto a quello italiano, e qui non è un problema di quanti tamponi fai, è una percentuale al 7-6%. E tra l'altro la situazione a Parigi viene definita molto preoccupante dal ministro alla salute Olivier Véran. Si ipotizza, dico, una zona, un nuovo lockdown anche a Parigi, sulla falsa riga di quello che c'è già a Marsiglia e Aix-en-Provence. Loro l'hanno chiamato rosso porpora, per dire un rosso ancora più rosso del rosso normale. Staremo a vedere, ripeto, non si sta invertendo la curva a Parigi, mentre qualche segnale sta arrivando da Marsiglia e Aix-en-Provence, ma lì c'è la chiusura totale dei bar e dei ristoranti, oltre che il divieto di raduni e feste. 2.600 contagi anche in Germania, record da aprile, con 360 pazienti in terapia intensiva. E il nuovo record d'aprile, mentre tra marzo e aprile era anche più alta, 6.000 casi. Comunque in Europa, venendo ai dati economici, cala l'inflazione a settembre anche nell'area euro, meno 0,3%. Le famiglie europee hanno toccato un nuovo record di risparmi, mentre crollano gli investimenti. Cioè sostanzialmente chi può ha messo i soldi nel salvadanaio o nel conto corrente bancario, mentre gli investimenti sono crollati. Questo lo vediamo anche nella raccolta del risparmio, risparmio gestito. E qui bisogna stare attenti poi quando si immaginano forme di incentivo ai consumi, perché da un lato occorre mantenere ammortizzatori sociali da welfare, come il reddito di cittadinanza, come il reddito di emergenza, per la parte appunto della povertà, del welfare, non per trovare il lavoro, che sappiamo che non serve il reddito di cittadinanza. E dall'altra però attenzione a immaginare che il cavallo beva solo dandogli un po' di stimoli economici, perché quello che noi vediamo è che chi può i soldi li mette in banca, stanno aumentando i risparmi, non i consumi. A questo proposito c'è un dato di PricewaterhouseCoopers che riguarda le abitudini d'acquisto nel settore moda. Allora, il calo è stato, stante questo sondaggio che ha riguardato 4.500 intervistati, del 36% negli acquisti della moda negli ultimi mesi. E quindi chi spenderà meno dello scorso anno è raddoppiato, passando dal 19% al 36%. Venendo all'Italia, l'Istat oggi fa sapere che nel secondo trimestre il reddito disponibile delle famiglie è calato del 5,8%, quasi 6% rispetto al trimestre precedente, con un crollo dei consumi dell'11,5%. È un crollo fortissimo. Vi ricordo che il dato è un dato, secondo me, quasi doppio rispetto a quello di adesso. Dovrei riprendermi i dati del 2008-2009, dove vado a memoria, quindi potrei sbagliarmi, il crollo dei consumi fu intorno al 4%. Qui siamo all'11,5%. Ma la propensione al risparmio delle famiglie è salita di 5 punti. Questo, io continuo a dirlo, bisogna guardare i numeri, lo dico anche al governo, perché poi immaginare cose in teoria, diamo soldi per consumare. Attenzione, dai soldi a chi non riesce ad arrivare a fine mese, rifinanzi da cassa integrazione, c'è il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza, ma dare i soldi adesso a categorie che non sono in quelle condizioni significa non avere nessun effetto economico, perché l'incertezza è talmente alta che la propensione al risparmio è cresciuta, ed è cresciuta anche nel secondo trimestre di 5 punti percentuali. Quindi tu rischi di dare dei soldi che poi vengono messi direttamente sul conto corrente e non stimolano i consumi. L'unico modo, secondo me, per stimolare i consumi è aumentare i posti di lavoro e quindi partire con questi benedetti investimenti anche in infrastrutture, ma non solo, fare investimenti e assumere persone che a loro volta andranno a pranzo, andranno a cena, andranno a comprarsi un paio di pantaloni o una gonna, e avanti così. So che alla politica piace molto invece dare soldi diretti perché crea consenso politico, ma tanto non ci sono elezioni in vista, cerchiamo di guardare con un po' di lungimiranza ogni tanto. Per quello che riguarda il deficit, è volato nel secondo trimestre al 10,3%, un punto percentuale di PIL, sono più o meno 18 miliardi, 18, 17, 19 miliardi a seconda del PIL dell'anno, e il fatto che dal 2% siamo passati al 10%, sono 8 punti percentuali di PIL di deficit in più, si giustificano con le manovre da 100 miliardi in tutto, tutte a debito. Ancora per quello che riguarda il Centro Studi Confindustria, oggi stima una produzione in aumento nel terzo trimestre del 26%, produzione industriale, dopo il meno 17% del secondo trimestre e il meno 8% del primo trimestre. Quindi un recupero molto molto forte, ma che se confrontato col terzo trimestre 2019 vede la produzione industriale ancora sotto del 6%. Quindi speriamo che magari questo 6% possa essere recuperato nel quarto e ultimo trimestre dell'anno. Le richieste a fondi di garanzia hanno toccato gli 87 miliardi, il Premier Conte ha ribadito che che chiederà un confronto col Parlamento per allungare lo stato di emergenza al 31 gennaio. Ieri ricordavamo che permette non solo i DPCM, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma da la possibilità al commissario, in questo caso d'Arcuri, di fare acquisti accelerati di beni per affrontare la pandemia, e poi mantenere le misure eccezionali, l'uso generalizzato dello smart working quando è possibile, insomma permette un po' di snellire la parte operativa. Comunque mi sembra abbastanza scontato che arriverà la proroga di questa emergenza. Sul recovery fund invece Conte ha detto l'Italia non permetterà rinvii, c'è stato oggi il Consiglio europeo, e diamo ampio sostegno alla mediazione tedesca. Su Atlantia non ho molte novità oggi, cioè bisogna, ha detto Patronelli, bisogna dar corso all'accordo del 14 luglio. Faccio notare che Autostrade dovrebbe ricordarsi, e Atlantia soprattutto, che in 10 anni ha speso il 28% in meno in quanto promesso, di quanto promesso sugli investimenti, e sulla base di quelle promesse che purtroppo con quella sciagurato accordo Autostrade per l'Italia aumentava i pedaggi autostradali, il 28% in meno. Mancano l'appello 3 miliardi e 559 milioni. Nel frattempo le tariffe degli pedaggi autostradali sono aumentate in questi 10 anni del 27%, e gli azionisti, tra cui la famiglia Benetton, si sono messi in tasca 6 miliardi di dividendi. Ora qualcuno vuol far notare, al di là della revocatoria o non revocatoria, che Autostrade e Atlantia devono tirar fuori questi soldi, hanno già intascato gli aumenti dei pedaggi ma non hanno fatto gli investimenti. No, voglio capire, perché invece che andare su operazioni che poi hanno mille difficoltà, chiedete ad Atlantia, che controlla per l'88% Autostrade per l'Italia, e di conseguenza anche Benetton, che hanno il 30% di Atlantia, di tirare fuori i 3 miliardi e 600 milioni di investimenti che non sono stati fatti. Visto che noi nel frattempo il 27% in più di pedaggi autostradali l'abbiamo pagato ogni giorno che Dio mandava in terra. Quindi, per favore, visto che mi sembra che, diciamo, ci sia un certo livello anche di non dico di arroganza, ma forse non hanno capito che è crollato un ponte due anni fa, però almeno fatevi dare da Atlante. Sì, sono un po' populista oggi, ha ragione, perché evidentemente a lei piace pagare il pedaggio del casello senza che il gestore faccia gli investimenti ma si becchi solo gli aumenti. Sarà populista questo? È anche populista prendersi 6 miliardi senza fare gli investimenti, o no? È populista solo perché attacco i Benetton? Sì, vabbè. Allora, visto che sono populista, adesso iniziamo con la classifica, così il populismo andrà al suo apice. Vorrei fare una preclassifica, perché, ripeto, la classifica vorremmo orientarla anche verso le spese per il Covid, gli sprechi, i furti, a maggior ragione quando riguardano l'emergenza Covid. Non molliamo il colpo però sulla scuola, non tanto, perché secondo il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, mancano ancora più del 50% dei banchi da consegnare. Allora, lui è intervenuto questa mattina con Simone Spezia, 24 mattina, Radio 24. Vorrei sapere dal commissario Domenico Arcuri se ci dà qualche informazione su come si stanno svolgendo le consegne dei banchi. Perché rotelle o non rotelle, da quello che ho capito, però vorrei capire se avevano ragione i produttori quando si sono imbufaliti ad agosto, perché non si possono organizzare centinaia di migliaia di banchi in un mese, oppure aveva ragione il commissario Arcuri. Se ci fa sapere, questo molto volentieri. Intanto ascoltiamo Giannelli. Naturalmente abbiamo la questione dei banchi monoposto, che diciamo la cui consegna sta procedendo a rilento. Ormai abbiamo superato il 30 settembre, quindi avremmo dovuto avere più o meno la metà dei banchi consegnati. Ecco, dati precisi non ne abbiamo, e infatti li vogliamo avere dal Ministero, però la nostra sensazione è che siamo molto indietro rispetto al previsto, cioè al 1.200.000 che si sarebbe già dovuto raggiungere. La stima ultima che si era fatta qualche giorno fa era attorno a 400.000, però capisce che rispetto al 1.200.000, che sarebbe la metà, siamo molto lontani. Ecco perché abbiamo chiesto la convocazione del tavolo tecnico previsto dal protocollo di sicurezza che abbiamo firmato quest'estate, proprio per confrontarci su questo e su altri temi. Sui docenti in quarantena abbiamo la difficoltà di tenerli a casa, però di considerarli in malattia, e allora con la malattia il lavoro è incompatibile, e d'altronde se il docente non è a scuola è chiaro che nessuno può fare vigilanza sulle sue classi, insegnare sulle sue classi che continuano a essere a scuola, perché se si mette in quarantena comunque sia, anche se potesse fare a distanza, ci sarebbe il problema di avere le altre classi a scuola. quindi la didattica a distanza viene male quando il docente sta a casa e gli alunni stanno a scuola. La classifica della settimana. No, non c'è nessuna polemica col commissario Arcuri. Non è facile gestire banchi e mascherine. Voglio solo sapere come vanno le consegne, cioè se ci può aggiornare su come stanno andando le consegne dei banchi, visto che lì si è puntato moltissimo, e appunto qual è il tasso di consegna, non dico settimanale, si può fare settimanale, si può fare mensile, non so, ci dica qualcosa. E basta con questi banchi, vabbè, mi scrivo. Allora tagliamoli in due, ha ragione un altro ascoltatore, facciamo lavorare i falegnami, i fabbri e via così. Allora andiamo con la classifica, partiamo come sempre bassi bassi, ma mica tanto. Allora, io devo dire una cosa, è cambiato tutto da marzo aprile, speriamo che torni a essere in parte come prima il più rapidamente possibile. È cambiato tutto, ma alcune certezze nella vita le abbiamo, per esempio che l'ATAC non può non finire in classifica. Io mi rincuoro, un po' sento Rino Gaetano sotto, un po' vedo l'ATAC in classifica e per un attimo ho avuto uno straniamento, non mi sembra neanche che vi sia il Covid in questo momento. No, torna in classifica l'ATAC, la mettiamo al quinto posto. Perché? L'ATAC è la municipalizzata, per chi non lo sapesse, è Trasporti di Roma. Perché? Non contenta l'ATAC stessa di avere battuto se stessa come record di assenteismo nel 2020, un altro record negativo, mai così tanti malati nel primo trimestre dell'anno, quando il Covid non c'era ancora, il Covid e iniziava a esserci il Covid soprattutto al nord, però evidentemente c'era già qualche sentore all'ATAC, perché nei primi tre mesi, gennaio, febbraio e marzo dell'anno, il 17%, ma ovviamente non per Covid, non sto scherzando, il 17% dei dipendenti dell'ATAC ha dato forfè al lavoro, ferie escluse. E quasi un lavoratore su 10, il 9,8%, ha presentato un certificato medico non di Covid per schivare il turno. Un trend confermato nel secondo trimestre, come annotato nell'ultimo rapporto sulle presenze pubblicato dall'azienda. Assenteismo al 16,2%, record di permessi sulla 104, anche perché nel frattempo sono entrati in vigore i congedi dell'emergenza Covid. Ma c'è anche chi non ha avuto bisogno del foglio del pediatra che va solo precompilato. Perché? Perché sentite questa, cioè in un mare magnum di assenteismo, io mi chiedo cosa ci voglia a procedere ai licenziamenti, ma non i 7 dell'anno scorso, andiamo pesanti, c'è una marea di disoccupazione in questo paese, ma vuoi fare un bel concorso all'ATAC? Vuoi che non si presenti nessuno per l'ATAC? No, dico, ma oltre a un 17% quasi di assenteismo e un record di 104, c'è anche chi si è inventato sta cosa all'ATAC. Sentite un po'. Si sono accorti? No, però qui vorrei cambiare la base di Gaetano. Mi date, adesso capiamo perché la base che vi chiamiamo araba, così sono più in tema? Oh, cioè. Perché la base araba, che noi chiamiamo con massimo rispetto? Perché si sono accorti che c'erano centinaia di certificati di malattia per gli autisti dell'ATAC, tutti con lo stesso timbro di un medico arabo. Non sto scherzando. Arabo. Provvisamente va benissimo, può essere arabo, svedese, chi se ne frega. Che fa il pediatra? Ma la cosa ancora più misteriosa, perché questo è un giallo, non è come mai, intanto perché centinaia di autisti chiedono il certificato medico, tutti lo stesso medico, arabo, con lo stesso timbro, pediatra. Ma la cosa ancora più interessante è che questo medico arabo evidentemente deve essere una piovra, un octopus, perché cambia la calligrafia a ogni certificato. Ora, se c'è una cosa certa nella vita, ci sono le perizie calligrafiche che tu più o meno scrivi nello stesso modo, invece lui no, ogni certificato la calligrafia è cambiata. In particolare è saltato all'occhio, te credo. Una volta scriveva stampatello, una volta scriveva il corsivo, cioè cambiava la calligrafia, il timbro lo stesso, sempre suo pediatra arabo. Allora, qual è il sospetto? Sospetto, diciamo una certezza in chi ha avviato l'indagine interna. I fogli non sono stati compilati dalla stessa mano, o immaginiamo la Dea Kali o la mano con cui scrive sempre la stessa, e quindi Il sospetto fortissimo è che decine di centinaia di dipendenti abbiano sfruttato la compiacenza del dottore Arabo, che a questo punto andrà chiamato in causa, oppure che gli autisti siano in qualche modo entrati in possesso del blocchetto dei referti o abbiano fotocopiato il blocchetto dei referti e poi se li siano compilati a mano, perché all'ATAC vige ancora la regola che se tuo figlio, cioè se la malattia è di tuo figlio, non serve la procedura informatizzata, quindi non viene spedito dal computer del medico curante, basta che tu arrivi col fogliettino in mano, scritto possibilmente non in arabo almeno, no? E viene inviato agli interessati. Allora intanto invitiamo l'ATAC a cambiare la procedura, cioè sarebbe buona cosa che anche per il nel caso dei figli il certificato venisse mandato dal medico curante. L'inchiesta riguarda 20 dipendenti, ma ci sono un centinaio di certificati firmati con grafie diverse, di foglio in foglio, dal pediatra arabo, mamma mia. Ma poi voglio dire, ma si può essere così pirla a non rendersi conto che se cambi grafia ogni volta prima o poi te beccano? Perché qui c'è un problema di sono ladri ma anche stupidi, le due cose magari non viaggiano di pari passo delle volte. Comunque, e poi partiranno dopo le sanzioni disciplinari la perizia che dovrà certificare l'imbroglio ordinata ieri e speriamo i licenziamenti, speriamo, nel senso se si hanno taroccato il certificato. Già l'anno scorso furono licenziati 7 conducenti per essersi assentati sfruttando le finte malattie dei bimbi, però lì li avevano smentiti gli stessi pediatri che hanno detto non li abbiamo mai firmati. E col pediatra arabo riparte la classifica come meglio non potevamo. Andiamo sul metro, la pubblicità, e poi andiamo quarto, terzo, secondo e primo posto. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. minuti, non vi dico cosa mai è arrivato sul pediatra arabo, chiaramente non è colpa del pediatra se la calligrafia è diversa ogni volta, hanno taroccato la ricetta, uno mi ha scritto pediatra arabo, si chiamava Ali Bebè, vabbè raga, fa già freddo abbastanza fuori. Andiamo al quarto posto. Ora, questa è una storia incredibile, molti di voi l'avranno già letta, spero, immagino, ma ci ho messo un po' a crederci. Allora, esiste una legge in Italia che permette l'aspettativa elettorale retribuita, secondo la legge, cioè per i dipendenti, tra cui le forze dell'ordine, che vogliono candidarsi in politica o per le politiche o per le regionali, c'è una legge, la legge prevede che possono stare 30 giorni a casa con lo stipendio totale al 100% per poter effettuare la campagna elettorale. La cosa per se stessa è una cosa corretta, ti dà la possibilità di concorrere alla vita politica, candidarti anche se non hai i mezzi, immagino che fosse questo lo spirito, e quindi hai un permesso di 30 giorni retribuito. La cosa pazzesca è che ci sono gruppi di poliziotti, io il massimo rispetto per la Polizia di Stato e per i Carabinieri, però sta vicenda, che hanno preso il vizietto, diciamo così, perché non si può far niente, c'è una legge che lo consente. Cosa fanno loro? La spiego brevemente. Si candidano nei comuni sotto i 1000 abitanti, sì, lo so che qua ne ha già parlato anche Spezia, però sotto i 1000 abitanti, perché lì non c'è l'obbligo di raccogliere le firme per presentare liste, e portano una lista, la lista si chiama in un caso Onesti e Liberi. Allora, sui liberi di fare che cavolo volevano, sì, onesti lasciate fuori. L'altra si chiamava Obiettivo Comune, sì, con il sottotitolo andare in quel posto allo Stato. Allora, si candidano in decine di posti. In questo modo ottengono un mese di permesso retribuito. Poi cosa succede? Intanto loro sono spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, arrivavano sempre secondi, quindi perdevano le elezioni e basta, è finita lì. E tra l'altro questa pratica riguarda non solo il caso che sto raccontando, ma ci sono altri casi. Purtroppo stavolta con le regionali gli è andata di sfiga. Nel senso che per un motivo un'altra lista farlocca è stata non ammessa, che avrebbe vinto, e non è stata ammessa, e quindi in automatico ha vinto la lista farlocca, cioè Onesti e Liberi. Allora, il comune si chiama Comune di Carbone, alle porte del parco del Pollino, che è un bellissimo parco, no? con la conseguenza che essendo essere non state eletti alla lista Onesti e Liberi, loro si sono dovuti dimettere tutti, anche perché Onesti e Liberi ha eletto il sindaco di Carbone Vincenzo Scavello, con lui Domenico Tancredi, Domenico Ciracì, Michele Del Pozzo, Matteo Fiumara, Maurizio Lorubbio, Fabio Antonio Martorana, Mauro Morciano, Vincenzo Foresta, Giuseppe Ponente, Giuseppe Salerno, tutti agenti della Polizia di Stato in servizio a Reggio Calabria nel reparto mobile. Tra l'altro, neanche a dire, vabbè, li cito perché sono stati eletti e almeno conosciamo i loro nomi. Metti che qualcuno a Reggio Calabria che sta ascoltando il programma almeno se lo ricorda. La lista loro cosa hanno fatto? Ovviamente non se l'aspettavamo di essere eletti, non era previsto che la lista Onesti e Liberi venisse eletta, era solo previsto che si facessero i fatti loro, pagati dallo Stato per 30 giorni. Si sono dimessi in blocco e a questo punto il prefetto di Potenza, Annunziato Verdè, è sconsolato. Hanno subito firmato le dimissioni e dovrò nominare un commissario per indire nuove elezioni. Nel 2019 il gruppo non era, mancava Scavello, che si era candidato, il candidato sindaco era Tancredi, cioè loro ruotano anche, tanto tutto farlocco, chi si deve candidare come sindaco. Nel 2019, ma sembra un gruppo teatrale, un gruppo musicale, erano a Parolise, provincia di Avellino. Nel 2018 erano a Arpaise, nel Beneventano. E tornando indietro nel tempo scopriamo che nel 2017 si erano candidati a Teana, provincia di Potenza, nel 2015 e nel 2016 a Ginevra degli Schiavoni e a Castelfranco in Miscano, ancora in Campania. Sono comuni piccolissimi, uno che ne ha 100 abitanti. Comunque la cosa che mi fa impazzire di questi, che chiaramente sono dei ladri, vabbè, si può dire ladro un poliziotto quando si prende un mese di aspettativa per non fare una mazza e poi si non sono neanche mai stati in questi paesi, non sanno neanche come sono fatti, e vi spiego perché io non ce la posso fare questa puttana. Carbone è un paese che ha poco più di 100 abitanti. Sapete qual era il programma elettorale della lista Onesti e Liberi? Allora, il sindaco Domenico Tancredi, che poi si è dimesso, allora, avevano proposto un intenso investimento per i pannelli fotovoltaici sul tetto delle scuole. Beh, almeno è giusto, no? E dici di sì in regia. No, perché non ci sono scuole a Carbone. Dove li metti questi tetti? Sti pannelli fotovoltaici? Su quale tetto lo metti? Ma chiaramente, non avendo mai visto Carbone, non potevano sapere che non c'erano scuole. E poi, investimento forte negli alberi per portare un po' di verde in un paesino nel parco naturale del Pollio. È come se uno volesse portare un po' di sabbia, che ne so, sulla costa sarda. Una roba incredibile. Almeno vai su Google Map, guardati sto cavolo di paese Carbone e non sparare minchiate, scusate il francesismo, ma come si fa a proporre pannelli fotovoltaici in un paese in cui non ci sono scuole, sul tetto della scuola, e proporre di mettere alberi quando il comune è abbarbicato nel Pollino, scusate, detto Pollino, nel parco naturale del Pollino? Incredibile. Ma sapete cosa dicono loro? Che tanto non c'è bisogno di conoscere i paesi, perché, cito testuale, il programma è sempre lo stesso, loro dovunque vanno propongono lo stesso programma, no? Pannelli fotovoltaici, alberi, pannelli fotovoltaici, verde, cavolo, se lo sa la von der Leyen, qua il recovery fund ci salta subito, già vedo che ci sono un po' di problemi oggi al Consiglio Europeo, perché la von der Leyen ha detto verde e digitale, questi adesso si allargheranno anche al digitale. Ma sapete perché hanno lo stesso programma? Risposta: perché i problemi dei piccoli borghi sono sempre gli stessi. Ho capito, anche vabbè, sto zitto, andiamo sul traffico, basta. Intimissimi uomo, boxer a 7,90 euro, nei negozi e online. Vi presenta Focus Economia. Chiedo venia se ho sbagliato l'accento del parco del Pollino, adesso spero di aver corretto, mi sembra però l'errore minore rispetto a sti geni. Ma qui i giornali titolavano sgominata la banda, dov'era, aspetta un attimo, la banda delle finte aspettative, ma pure la banda dell'aspettativa. Ma io spero che ci sia un modo, a parte che il ministro Lamorgese, i nomi li conosce anche lei, qualcosa da dire, potremmo anche dire qualcosa a questi agenti del reparto, ma perché ogni anno che Dio manda in terra loro si candidano, perché c'è sempre un comune, ma sono bravissimi, c'è sempre un comune italiano che va a elezioni sotto i 1000 abitanti dove non devi raccogliere le firme. Sono meno bravi a studiarsi i comuni, perché sto cavolo di programma sempre uguale. Oddio, anche partiti grandi è anni che propongono lo stesso programma, ma almeno conoscono i luoghi, almeno così. Bellissima, gli alberi, capito, a Carbone, e come no. Allora, andiamo al terzo posto. Qui torna un altro grande classico della classifica. Non so, abbiamo mica fatto apposta. Poteva mancare alla ripartenza della classifica la regione Sicilia. Ora, io qui non c'è nulla di irregolare in senso tecnico. Voglio essere molto chiaro. Però io mi chiedo, e lo dico direttamente, che si è molto piccato l'assessore alle attività produttive Domenico Turano della regione. Si è piccato con il consigliere regionale, il deputato del Movimento 5 Stelle Aldo Penna, che ha fatto notare una cosa, che la Regione Sicilia ha organizzato la proiezione del film Devotion di Giuseppe Tornatore con musiche del maestro Ennio Morricone, da poco scomparso, in alcune piazze siciliane, non devo dire non piazze enormi, tra cui Polizzi Generosa, che ammetto la mia ignoranza, non conoscevo, non mi sembrano i centri più grandi della Sicilia. La cosa che però mi lascia un po' perplesso, che per avere la collaborazione con Dolce & Gabbana, al di là del fatto che alcuni accusano Dolce & Gabbana di essersi fatta una pubblicità in diretta, ma lasciamo stare questa cosa, la Regione Sicilia ha speso 600, cioè 580 mila euro. Ora io chiedo una cosa all'assessore Domenico Turano. Assessore, uno può fare, lei può fare quello che vuole, ci mancherebbe, ma in periodo di Covid, ma le sembra il caso di spendere 600, di dare 600 mila euro a Dolce & Gabbana, che per carità hanno un gruppo bravissimo nel fare quello che sanno fare, per la Regione Sicilia? Lei è assessore alle attività produttive. Lui dice, francamente non vedo spese inutili, ma solo un grande investimento. Io francamente non vedo l'investimento e vedo solo spese inutili. Assessore, come la mettiamo? Questa mi sembra la più classica polemica da ombrellone. Ovviamente qua piove, da ombrello, per riuscire ad avere qualche rigo sui giornali. No, ma anche in radio, assessore, così la cito testualmente. Ma veramente in sto periodo di Covid lei non riusciva a spendere 600.000 euro se non dandole Dolce & Gabbana per portare in giro questa cosa della Sicilia? Si configura in tutto e per tutto come un'azione di co-marketing con la Regione Siciliana finalizzata a valorizzare la Sicilia e i suoi prodotti. Ma li state valorizzando in Sicilia? Cioè, state spiegando ai siciliani cos'è la Sicilia, state spiegando ai siciliani che prodotti produce la Sicilia, ma che marketing è questo? Cioè, i veneti si valorizzano il Veneto, i trentini spiegano ai trentini come sono le montagne, l'orso, e via così, i lombardi spiegano ai lombardi, i campani spiegano ai campani. Ma voglio dire, assessore, io la invito a contattare, così teniamo anche un figo con la classifica, il candidato sindaco di Carbone, lì come si chiamava, onesti e liberi, perché potrebbe nascere un co-marketing anche lì, no? Magari spiegare agli abitanti di Carbone perché gli alberi sono importanti. Ma che vuol dire co-marketing con Dolce & Gabbana, finalizzata a valorizzare la Sicilia e i suoi prodotti? Non è necessario essere degli esperti di marketing, continua l'assessore alle attività produttive Domenico Turano, per comprendere l'opportunità di associare la promozione della Sicilia e dei suoi prodotti al marchio Dolce & Gabbana e cogliere i grandi benefici per le imprese siciliane e il turismo nel poter accedere attraverso i canali di comunicazione della nota Maison ad una vetrina internazionale di prim'ordine. Ma se non sta volando nessuno e non ci sono turisti? Assessore, in questo periodo di Covid, per favore, i 600.000 euro non poteva darli a famiglie bisognose, a politiche di social housing, a sconti sugli affitti, non so, qualunque cosa? Immagino che in Sicilia i siciliani abbiano questo come problema. Comunque, e siamo arrivati al terzo posto. 600.000, ripeto, non c'è nessun reato, c'è l'opportunità. E soprattutto io su una cosa sono d'accordo con l'assessore delle attività produttive Domenico Turano, che non bisogna essere degli esperti di marketing. Questo siamo d'accordo. Infatti lei mi sembra che risponda a questo profilo, perché non capisco dove sia il marketing. Cioè, non è che avete fatto una cosa in Norvegia, in Svezia, per promuovere la Sicilia. Avete portato in giro per diverse piazze siciliane un film sulla Sicilia, così i siciliani capiscono finalmente in che regione abitano, e avremo un marketing in cui i catanesi andranno a Palermo, i palermitani andranno a Catania, i messinesi andranno a Cefalù, da Cefalù si sposteranno a Lampedusa, che tutto in casa. Com'è? Andiamo al secondo posto in classifica, e qui purtroppo c'è poco da ridere, perché le risate le abbiamo fatte prima, ma qui ci sono 10 milioni di euro di truffa, e non c'entra il Covid in questo caso, se riesco a ribeccare il secondo posto. Ah no, scusatemi, mi sono bruciato il primo, ogni tanto capita, anch'io non sono più allenato alla classifica. Il secondo posto riguarda invece truffe proprio sull'emergenza Covid, e le metteremo sempre. Ne cito due. Allora, il primo riguarda quattro società milanesi, che beccata dal comando provinciale di Milano, quattro società di capitali con sede a Milano, Pozzo d'Adda e Grezzago, dove, sfruttando il decreto rilancio, quello che ha funzionato molto bene, ossia che dava, per chi aveva perso più del 33% del fatturato nel mese di aprile, dava la possibilità di andare al, dava il 20% della differenza, hanno beccato quattro società in cui con false, sostanzialmente avevano un falso fatturato, hanno dichiarato nella propria richiesta del fondo pubblico un livello di fatturato riferito ad aprile 2019 completamente falso, perché l'attività risultava avviata solo a maggio del 2019. Pure qua io non so se fa la classifica dei Mona o la classifica dei ladri, perché come fai a fare, se sei partito con, la, con il fatturato a, a maggio, a mettere che ad aprile avevi perso? E dai, li hanno beccati tutti, chiaramente il danno erariale è di 87.000 euro. Devo andare sul GR24 e poi il primo posto, la startup, e poi tra l'altro mi dicono che Carbone sia un paese bellissimo, quindi invito tutti a fare marketing assieme all'assessore che si chiama Co-Marketing, andiamo a Carbone, bellissimo paese, libero anche dalla lista, onesti e liberi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Il 60° Salone Nautico è a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Acquista i biglietti online. Ci sono firme speciali, firme che ci emozionano. Alcune le conservo con cura. L'autografo del mio campione preferito da bambino, quella dei miei amici sugli auguri per la laurea. Ma soprattutto, la prima dei miei figli su un loro disegno. Sono Danilo Cattaneo, amministratore delegato di InfoCert. Anche nel lavoro c'è una firma speciale, sicura, e la firma digitale. Noi di InfoCert lo sappiamo e lo sanno anche i nostri clienti. Fai come loro, firma sul futuro, firma con noi. Vai su InfoCert.it. InfoCert, T-Next Group. Non vedo l'ora di essere tra le onde con il surf. Ma perché non andiamo in montagna invece? Ma dai, mare tutta la vita. Ma pensa all'aria fresca, alle passeggiate. E tu pensa al sole, all'acqua, alle cene di pesce. Non mi piace il pesce. Mi fa schifo passeggiare. Compagnia sbagliata? Per la polizza auto e moto, segugio.it trova la compagnia giusta per te e ti fa risparmiare. Segugio.it trova la compagnia giusta. Io ti riscalderò con la massima efficienza. Tu verrai rimborsato al 110%. Lei ti farà risparmiare sulla bolletta. Noi avremo meno impatto sull'ambiente. Ma che tempo è? È il futuro del riscaldamento. Con Daikin il futuro è già presente. Sostituisci oggi la tua caldaia. Hai sostenibilità, efficienza e la possibilità di ottenere il super bonus. Entra nel futuro del riscaldamento al 110%. Scopri come su daikin.it. Daikin. Noi di Banca IFIS ti supportiamo per far crescere il tuo business. E per farlo bene ti siamo sempre vicini. Banca IFIS, il valore di crescere insieme. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti, andiamo al primo posto della classifica. Mi segnalano molti ascoltatori, non lo sapevo, che Polizzi Generosa, uno dei paesi cruciali coinvolti da questa iniziativa fondamentale di co-marketing, per cui la regione Sicilia ha dato 600.000 euro a Dolce Gabbana, dicevo, che ha toccato diverse piazze siciliane per fare marketing sulla Sicilia ai siciliani, bellissima. Polizzi Generosa, mi scrivono gli ascoltatori, è il paese di Domenico Dolce. Ora, le due cose non c'entrano nulla, però non lo sapevo, se no altrimenti l'avrei detto. Vabbè. Ma va tutto bene coinvolgere Dolce Gabbana, ma ci mancherebbe. Va meno bene spendere 600.000 euro in questo periodo con i chiari di luna, perché non ci sono persone poco abbienti in Sicilia che abbiano bisogno di un aiuto. No, chiedo all'assessore delle attività produttive Domenico Turano, facciamo così, andiamo avanti così. Ecco perché il recovery fund non bisogna metterlo in mano, a mio avviso, alle regioni. Ci sono regioni bravissime nello spendere i soldi, ma con quello che vediamo nella classifica, centralizziamo tutto, commissariamo la gestione dei soldi, andiamo a verificare, ma ci mancherebbe che poi usano altri 600.000 euro con un altro gruppo di stilisti per promuovere la Sicilia e i siciliani. Allora, andiamo al primo posto della classifica, qui non c'è niente, ma proprio niente da ridere. And the winner is... Allora, the win sono Rosanna Frontera, 56 anni, Giuseppe Failla, 65 anni, rispettivamente legale rappresentante e direttore generale della clinica Villa Sant'Anna di Catanzaro, nota struttura sanitaria, nonché centro di riferimento regionale di alta specialità per il trattamento e la cura delle malattie cardiovascolari. Perché... sono i vincitori, dunque è un periodo questo, non devo dirlo io, che si guarda con estrema attenzione alle terapie intensive. Qui hanno scoperto, la Guardia di Finanza ha scoperto una truffa da 10 milioni e 500 mila euro di rimborsi dal Servizio Sanitario Regionale e quindi calabrese tra il 2013 e il 2019, a fronte anche di oltre 1000 falsi ricoveri in terapia intensiva coronarica. Perché 1000 falsi ricoveri? Perché non c'era la terapia intensiva. Sono indagati per truffa aggravata e continuata ai danni del servizio sanitario e frode nelle pubbliche forniture. Hanno sequestrato, per fortuna, beni finanziari per 10 milioni e mezzo di euro a carico della clinica, degli stessi Frontera e Failla, del direttore sanitario pro tempore Gaetano Muleo, che ha 75 anni e in carica pro tempore. Questo è un paese bellissimo, ma è l'unico paese al mondo in cui un direttore sanitario già oltre la pensione è in carica pro tempore per 9 anni, dal 2010 al 2019. Pro tempore, omori. Allora, vi è arrivata l'indagine partita e coordinata dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli, dal PM Vito Valerio e Chiara Bonfandini e dalla direzione del procuratore Nicola Gratteri. La truffa ruotava attorno al reparto di unità di terapia intensiva coronarica, ufficialmente operante nella clinica, ma che non è mai entrato in funzione. Sin dal 2013 la casa di cura era accreditata con il servizio sanitario alla gestione dei posti letto, appunto, di terapia intensiva coronarica. Ma dalle indagini è emerso inequivocabilmente che il reparto non era mai stato concretamente avviato, cioè mancavano le attrezzature conformi agli standard, mancava il personale medico e paramedico preparato e il numero idoneo a garantire la turnazione dell'assistenza 24 ore. Quindi mancavano le attrezzature, il personale, c'erano forse le mura. I pazienti cardiologici acuti venivano assistiti nei reparti di cardiologia o di unità di terapia intensiva post-operatoria, mentre i posti letto ufficialmente destinati al reparto di terapia intensiva coronarica ricoveravano quelli ordinari, anche perché mancando la terapia intensiva coronarica potevi solo mettere quelli ordinari. Grazie a questo sistema hanno ottenuto dal 2013 al 2019 10 milioni e mezzo di euro di illecito profitto. Nei confronti degli indagati viene anche ipotizzato il reato di violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato, perché una volta appreso dell'esistenza dell'indagine avrebbero minacciato alcuni medici di conseguenza sul piano lavorativo e personale nel caso in cui non avessero ritrattato o rimodulato le dichiarazioni rilasciate ai finanzieri. Ora io dico una cosa: oltre al sequestro dei beni, quando arriverà, spero, la condanna, si può chiedere, non so se questo paese sia possibile, una così condanna alternativa alla prigione, cioè i lavori socialmente utili, e che i lavori socialmente utili di questi Frontera, vi do i nomi perché Giuseppe Failla, Rosanna Frontera e Gaetano Muleo vengono svolti nei veri reparti di terapia intensiva, possibilmente Covid, così capiscono che non si scherza sulle terapie intensive. Mandateli a fare, invece che domiciliario, mandateli a fare veramente il lavoro in terapia intensiva a Catanzaro, nel reparto Covid, o se non a Catanzaro, a Reggio Calabria, dove ci sarà bisogno, così perdono il vizio di scherzare sulle terapie intensive. 10 milioni di furto al sistema sanitario nazionale e nello specifico a quello calabro. Jacopo Pertile, cofondatore di Azzurro, dunque co-founder, chief operating officer, partiamo male, cofondatore di Azzurro Digitale, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Le cariche in inglese, sa che non sono molto grate in questo programma. Che cos'è Azzurro Digitale? Quando è stata fondata? Quanti siete? Cosa fate? Quanto fatturate? Un fiorino. Buonasera Sebastiano e a tutti gli ascoltatori. Azzurro Digitale è una società che si occupa di trasformazione digitale per il mondo manifatturiero. Quindi noi supportiamo le aziende manifatturiere di medie e grandi dimensioni e le aiutiamo nella digitalizzazione dei processi all'interno della fabbrica. Siamo una realtà nata nel 2015, siamo partiti in tre soci, giocavamo a calcio assieme, ci siamo conosciuti nei campi di calcio e ora siamo una realtà di quasi 40 persone che lavora prevalentemente in Italia. Come avete assunzioni a tempo determinato, indeterminato? Come li avete assunti i 40? Abbiamo assunzioni a tempo indeterminato, contratti di apprendistato, qualche determinato e ovviamente anche qualche giovane stagista in rampa di lancio. Senta, state assumendo in questo periodo, lo dovrò chiedere a tutti chiaramente, perché voi fate consulenza digitale per chi lavora nel mondo del tessile, se ho capito bene, giusto? Soprattutto non solo nel mondo del tessile, ma proprio nel mondo manifatturiero in generale, mi scusi, ho sbagliato io. Però siccome adesso è il tema non solo del recovery fund, ma è proprio il tema anche della digitalizzazione, speriamo che il governo faccia quello che ha promesso, cioè di rifinanziare già in manovra il 4.0. Come sta andando il fatturato e state assumendo? Allora, noi siamo abbastanza fortunati, nel senso che lavorando con aziende internazionali abbiamo avuto un anno comunque in crescita, quindi quest'anno saremmo dovuti crescere del 100%, in realtà alla fine chiuderemo con una crescita del 70% rispetto all'anno scorso. E quindi stiamo assumendo, non siamo riusciti ad assumere come ovviamente da programma, perché anche noi tra aprile e giugno abbiamo avuto un forte rallentamento. Però più 70%, qui c'è gente che prende il Malox in ascolto, perché i segni vanno meno 30, meno 20, meno 40, meno 60, voi avete fatto più 70. Quanto fatturate? Non me l'ha detto? Noi siamo ancora piccolini, quest'anno raggiungeremo poco meno di 2 milioni di fatturato, quindi ovviamente è più facile crescere. Senta, chi vi ha aiutato, è l'ultima domanda che ho per lei, nel creare la startup? Banche, qualcuno? Noi siamo partiti da soli, quindi ci siamo autofinanziati, dopodiché lo scorso anno abbiamo costituito questa piattaforma che si chiama Advanced Workforce Management System, scusa l'inglesismo, è il nome un po'. Ma avete usato anche Talent Garden, se non ricordo male. Sì. Noi siamo partiti proprio da Talent Garden, dagli uffici di Padova di Davide Dattoli, e l'anno scorso abbiamo chiuso un primo round di investimento. Chiaro. Con alcuni grandi investitori che ci hanno aiutato a fare nel primo miglio, diciamo. Mi dica solo una cosa, Pertile, quanti anni ha lei? Cosa faceva prima? Però rapido. Io, 32, lavoravo in consulenza strategica. Allora, in bocca al lupo a Jacopo Pertile, a tutti i quasi 40 dipendenti di Azzurro Digitale. Appunto, mettiamo sempre le start-up e chi si era imboccato le maniche anche in questo periodo difficile per tonificarci dopo la poco invidiabile classifica. Giustamente qualcuno mi segnala che la Regione Calabria da anni che non riesce a fare un bilancio sulla struttura sanitaria, a te credo, se non controlli neanche quello che succede nelle cliniche in questo modo. Grazie a Jacopo Pertile, Traffico e poi Marco Fortis sui numeri dell'export a partire dal Salone Nautico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Focus Economia. Allora, si è aperto a Genova il Salone Nautico, complimenti a tutti i partecipanti anche per il coraggio di fare un salone in presenza, che non è cosa da poco in questo periodo. Il settore nautico in Italia vuol dire 4 miliardi di giro d'affari, di cui 3 miliardi proprio nella parte cantieristica, 1 miliardo e 300 milioni negli accessori, perché c'è tutta l'industria anche dell'arredo, del design, degli accessori, che lavora molto con la nautica, e motori 410 milioni. Noi siamo al secondo posto come esportatori mondiali nel settore della cantieristica nautica con 2 miliardi e 600 milioni e abbiamo il 15% dell'export mondiale. Dopo il crollo, il punto più basso fu raggiunto nel 2013, l'incremento del fatturato del settore nautico è stato del 93%. Vorrei partire da qui, poi lo arriveremo ospite con Marco Fortis, docente di economia industriale e commercio estero alla Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison. Buonasera professore. Buonasera. Io ricordo sempre che lei è una delle persone che conosce veramente i numeri dei distretti, dei settori produttivi quando parliamo di export. Mi può dare intanto lo stato di salute della nautica in questo periodo e poi invece vorrei capire che fotografia mi fa più generale dell'andamento del nostro export, chiaramente negli ultimi mesi, non durante il lockdown. Beh, diciamo che la nautica da diporto in particolare ha avuto un 2019 molto positivo, con una crescita del 12%, il quinto anno consecutivo che il settore cresce come fatturato globale oltre il 10%, con una crescita a due cifre. Il 2020 naturalmente era iniziato sotto i peggiori auspici dopo l'esplosione della pandemia del Covid-19. Le ultime sensazioni provenienti dalle inchieste presso le imprese segnalano in realtà un certo miglioramento della fiducia e previsioni di un buon 2021. Naturalmente è importante segnalare che non solo nel 2019 aveva recuperato la produzione per l'export, crescendo ancora del 12,2%, ma anche il mercato interno. E sembrerebbe, dalle sensazioni raccolte anche al Salone, che in qualche misura questo settore, anche i dati del leasing lo dicono, è l'unico settore in cui il leasing è cresciuto ancora. Perché questo? Perché tutto sommato c'è una certa ricerca, anche dovuta ai cambiamenti dei modelli di spesa, di consumo, di fare le vacanze, delle persone un po' in tutto il mondo, c'è una certa ricerca della vacanza all'aria aperta e comunque di un modo di vivere più isolato, se vogliamo così dire, no? Rispetto agli assembramenti. Quindi la nautica... Sì, interessante questo, che chi può permetterselo chiaramente, ma la nautica però non è solo, non sono solo i grandi yacht, ci sono anche a Genova, sono presenti tantissimi cantieri piccoli con prezzi più abbordabili, voglio dire, delle volte parliamo del costo di un'automobile. Però dico permette di stare appunto di, posso usare il termine, di non contaminarsi, di non venire a contatto con un numero molto alto di persone ed non ci avevo mai pensato, ma in effetti il ragionamento ha più di un senso. Senta professor Fortis, invece sui settori rapidamente, lei che cosa sta vedendo? Perché lei ha un osservatorio che io seguo con molta attenzione, perché va proprio sui numeri veri, non sui numeri aggregati, disaggrega i numeri settore per settore, area di export per area di export. Riesce a farmi una fotografia complessiva citando anche però i settori e le aree di destinazione? Diciamo che non possiamo certamente aspettarci miracoli da questo 2020, i cui dati sono compromessi dal lockdown in tutto il mondo, e quindi così come i mercati interni hanno sofferto, anche il mercato mondiale, il commercio internazionale è fermo. Abbiamo intere aree del pianeta, pensiamo all'India, al Sud America, che sono paralizzate dalla pandemia, abbiamo gli Stati Uniti che ancora non sono usciti, diciamo, da una situazione di emergenza, vediamo in Europa la Gran Bretagna, la recrudescenza dei contagi in Francia e Spagna, una situazione per il momento ancora speriamo migliore per l'Italia e per la Germania, però è chiaro che abbiamo l'intero mondo che è ancora sotto scacco di questa epidemia, quindi l'economia non potrà andare benissimo quest'anno, l'export rimane al palo, ci sono certamente segnali di imprese che comunque non si stanno spaventando di questa situazione, sono consce del fatto che eravamo entrati nella pandemia con l'export che andava meglio in Europa, meglio di quello tedesco, francese, spagnolo, aveva battuto tutti i record di export di bilancia commerciale nel 2019. Abbiamo settori come quello che le ricordava dove siamo secondi nell'export, ma è un dato apparente perché in realtà l'Olanda è un paese di entrate e uscite, di flussi, il primo paese per bilancia commerciale anche nella nautica da diporto, come tanti altri segmenti del nostro sistema, è l'Italia. Mi scusi, l'anno scorso cosa avevamo fatto? Più di 50 miliardi di avanzo commerciale, c'era cioè la differenza tra export e importazioni? Sì, ma addirittura per la prima volta il, diciamo, il dato della bilancia commerciale manifatturiera, come classificato dall'Istat, ha superato i 100 miliardi di euro, una cifra veramente che ci pone al quinto posto al mondo per surplus manifatturiero. Sì, tra l'altro, se non ricordo male, levando dal totale la differenza tra export e importazioni, la parte energetica, che è un'importazione, diciamo, obbligata, addirittura si arrivava a un avanzo commerciale complessivo di 96 miliardi, vado a memoria. Certo. Se poi consideriamo solo il manifatturiero, come dicevo, addirittura a 100 miliardi, cioè la differenza del manifatturiero, certo. Anche le materie prime, oltre che non energetiche. Esatto, quindi il manifatturiero da solo aveva una differenza di 100 miliardi. Poi è chiaro che il dato si riequilibra, perché devi considerare anche altri settori. E un'ultima domanda, professor Fotis, le aree di destinazione, non mi ricordo, dunque, parlando con gli operatori del tessile, in settimane e anche la settimana scorsa, ci hanno detto: guardate, qualcosa di buono sta arrivando dal nord Europa e dall'Asia, invece problemi ancora forti col Nord America e il Sud America. Vorrei capire se questa analisi si può estendere alla maggior parte dei settori del nostro Made in Italy. È abbastanza generalizzato, anche perché la Cina sta riprendendo, sia pure con fatica. I dati anche ultimissimi di centri di previsione, citerei Prometea, che è appena uscito, dicono che la Cina avrà un rimbalzo dell'8%, è uno dei pochi paesi che, dopo aver avuto una flessione molto modesta, perché, ma modesta rispetto ai nostri standard, non rispetto ai suoi, perché si passava da più 6, sono arrivati ad una crescita zero quasi. Quindi diciamo che la Cina avrà un rimbalzo interessante, a poco a poco le esportazioni verso la Cina già stanno mostrando segnali di ripresa. Alcune aree del nord Europa sono state relativamente toccate dalla pandemia, o comunque hanno affrontato questa situazione anche con dei lockdown meno severi, i consumi e le importazioni continuano a essere interessanti, però certamente intere aree come gli Stati Uniti, ma pensiamo anche al commercio intracomunitario, cioè fin tanto che l'auto tedesca non riprende in maniera sostanziale, viene a mancare un traino che è fondamentale per la meccanica italiana, che l'Europa, per la meccanica. Noi facciamo la componentistica tedesca di auto, è al 20-21% italiana, lo ricordo sempre a tutti, cioè un quinto di un'auto tedesca come componentistica interna è fatta in Italia. Qualcuno mi segnala che anche il settore dei camper è in forte crescita per lo stesso motivo, diciamo, del settore nautico. Non ho dati alla mano, ma ha senso quello che viene detto, quindi come spostamento di consumi anche dovuto all'emergenza Covid. Grazie al professor Marco Fortis, è veramente tutto per questa puntata. Io ringrazio come sempre Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro per l'assistenza in studio e in redazione. Noi ci sentiamo lunedì, stavo per dire domani, dalle 17 in poi. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.